In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Novembre 2011, buongiorno a tutti da Francesco Puglisi. Ma perché sei andata via? Mi sono persa nella notte. Perché non m'hai detto che non eri mia? Non lo so, sarà il vento, sarai tu. La voce che risponde a me perché. Dai galoppa più che vuoi. Corri vai, non ti fermare. Che di strada ce n'è ancora tanta, sai. Sì, lo so, vedo una cantina che sete e polvere. Lancio qualche peso al cantinero che non parla mai. Accanto a me c'è un gringo, uno straniero. Mi chiede man dove vai. Nord, sud, ovest, est. E forse quel che cerco neanche c'è. Facciamo gli auguri a Max Pezzale, che oggi compie gli anni. Infatti è nato nel 1967, il 14, come è nato anche Maria Suma, Michele Cucuzza e poi anche il nostro Carlo De Benedetti, imprenditore della Olivetti, Infostrada e così via. Auguri a tutti coloro che si chiamano Clemente. Infatti la Chiesa Cattolica quest'oggi festeggia San Clemente. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, che sono 0921 92 32 92, 335 56 37 251, e abbiamo anche a vostra completa disposizione il sito internet, che è www.crmepiradio.it, all'interno del quale potete direttamente richiedere la canzone che maggiormente preferite, oppure collegarvi tramite il nostro sito alla nostra

Don't Worry Be Happy, la canzone che abbiamo sentito quest'oggi. Continuano praticamente le tegole contro l'ATAC di Roma. Dopo aver letto dell'autista che scende per fare un prelievo bancomat, quello sorpreso a guidare e mandare un SMS, adesso è stato ripreso con un video un autista che ha parcheggiato il bus, è sceso, andato in una pizzeria, ha comprato la pizza, e in questo video praticamente si vede l'unico passeggero all'interno del bus che pazientemente aspetta il rientro dell'autista. Lui rientra con la pizza, ringrazia comunque il passeggero dell'attesa e riparte. E beh, la scena è cena. Continuiamo. Consigli con me. La tua mattina su CRM Happy Radio è slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Slalom, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Io sono Francesco Puglisi e questa è CRM Happy Radio, la vostra radio preferita. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, che sono 0921 92 32 92 e 335 56 37 251. Buon ascolto con Christopher Cross. Christopher Cross che abbiamo rispolverato con questa canzone che si intitola Ride Like the Wind. 80.000 euro è la base d'asta per quanto riguarda alcune fotografie della bella Marilyn Monroe, che dopo tanti anni comunque continua ad essere una delle pochissime, dei pochissimi miti attirare attorno a sé praticamente sempre aste, cose che possono essere vendute e quindi fare soldi. Questa è una base d'asta di 80.000 euro per quanto riguarda alcune foto inedite. Continuiamo ancora con la musica e salutiamo Veronica che ci ha richiesto questo pezzo di Jennifer Lopez. Vi ricordo che si vende un appartamento di 4 vani, circa 120 metri quadri, in pienissimo centro storico, zona Pretoria, piazza, quindi quattro canti, a Palermo, primo piano, con lungo balcone su Corso Vittorio Emanuele, in un palazzo d'epoca, totalmente da ristrutturare, rientrante comunque nei piani di finanziamento regionali pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia numero 14 del 1 aprile 2011. Ancora musica. Since I came around, been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down, will you?

like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Consider the best. I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least a mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But I've been here. I time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confession on. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels. Cause I like how it feels. Sembrava un lapsus, invece Antonio Di Pietro ci è ricascato ancora. Il leader dell'Italia dei Valori ha infatti commentato con una battuta omofoba anche l'altro ieri mattina in un'intervista con Maurizio Belpietro a Canale 5 che un governo Monti sostenuto dal PDL e PD non può durare molto. È come due uomini a letto insieme. Di Pietro questa stessa battuta l'aveva fatto la sera prima a Porta, quindi nemmeno 24 ore. Ora bisognerebbe capire se quello che ha annunciato due giorni fa lo mantiene il nostro Di Pietro. Continuiamo con la musica, ma prima consiglio commerciale e poi rientreremo in studio avendo, come già anticipato, il nostro caro amico Ludovico Caldarera ospite. Come già anticipatovi prima delle comunicazioni pubblicitarie, abbiamo quest'oggi il nostro caro amico Ludovico Caldarera che ci è venuto a trovare telefonicamente, che lo ringraziamo innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Ciao Ludovico. Buongiorno a tutti e ringrazio voi per avermi invitato a... Allora, sì. Facciamo una piccola premessa. Chi è Ludovico? Ludovico è un attore palermitano, si è diplomato nell'85 presso la scuola del teatro diretto da Michele Perriera e ha fatto diverse importanti apparizioni cinematografiche, tra cui quella di Giuseppe Tornatore in Bahia, e poi ha partecipato anche in due film del commissario Mantovano. Com'è andata questa esperienza? Ma è stata molto, molto bella, molto interessante questa del commissario Mantovano, perché mi sono trovato in un ambiente molto, molto bello, molto, le persone erano molto disponibili, sai, a volte si ha l'impressione, specialmente in questo caso come il commissario Mantovano, che è una serie TV molto seguita, che da Luca Zingaretti a tutti gli altri sono delle persone un po' inavvicinabili, invece no, si è creato subito un bel rapporto, quindi è stato molto bello. Però ti dico, con Luca Zingaretti già mi ero in un certo senso avvicinato, ecco. Perché una delle cose più interessanti, ma non è stato fatto per la TV, anche se poi l'hanno trasmesso, è stato un film che ho fatto con i fratelli Taviani, quello tedesco, Turiti, diciamo, ed erano due episodi dove in un altro c'era erano due episodi, in uno era protagonista Zingaretti assieme ad Albanese, nell'altro invece l'ultimo film che ha fatto Turiferro con questi qua, quindi già con lui mi c'ero già incontrato. Già c'era stata questa esperienza. Sì. Allora, però io volevo, ti avevo anche cercato e invitato perché tu hai un progetto interessante che porti avanti da tanto tempo, uno spazio particolare dedicato soprattutto ai bambini, il teatro delle beffe. Il teatrino, e l'associazione si chiama Associazione Teatro delle Beffe, e naturalmente questo spazio l'abbiamo chiamato Teatrino delle Beffe, così già richiama il nome dell'associazione, teatrino perché è piccolo ed è per i piccoli, quindi è uno spazio che noi l'abbiamo diciamo, proprio per svolgere attività esclusivamente per bambini e ragazzi, come spettacoli teatrali, laboratori teatrali, eccetera. È questo. È 10 anni che l'abbiamo, proprio quest'anno ha fatto 10 anni di vita. Comunque, ma allora come funziona il Teatro delle Beffe, Ludovico? Ma guarda, noi durante l'anno facciamo sempre una rassegna teatrale e dei laboratori. Quest'anno ne abbiamo uno che è quasi alla fine, che è iniziato a gennaio, che finirà ora a dicembre. E poi quest'anno abbiamo pure pensato di aprire la sera questo spazio ad altre realtà palermitane e non. Infatti ho ricevuto delle telefonate di gruppi pure fuori dalla Sicilia. Vogliamo dare la possibilità a chi vuole esibirsi sia con spettacoli per bambini o anche per adulti, in questo caso, perché abbiamo notato che ci sono molti ragazzi che hanno voglia di comunicare, di esprimere, di fare spettacolo, proprio avere questo rapporto col pubblico diretto. Esattamente, e dare uno spazio dove, perché a volte trovare uno spazio, e noi lo diamo gratuitamente, cioè nel senso che noi mettiamo a disposizione lo spazio per chi si vuole esibire, lo spazio, le luci, la fonica, un tecnico, tutto quello che occorre per portare avanti uno spettacolo esattamente teatrale. Sì, e quindi potersi, diciamo, esprimere, promuovere una propria attività. Questo perché a noi piace che il luogo diventi un luogo vivo e non, e poi, essendo pure uno spazio piccolino, eppure è abbastanza gestibile, basta poco per rendere questo spazio veramente vivo, vivo. Ok, vivo. Sì, perché comunque non è uno spazio grandissimo e quindi questo ci permette di 60 posti massimo. Vabbè, ma comunque non è quello dei 60 posti, è il creare proprio l'atmosfera giusta che possa essere coinvolgente sia per quanto riguarda l'attore sia per quanto riguarda gli spettatori. Esatto, sì. E, mi ha incuriosito molto leggere una cosa sul tuo sito: crediamo che il pubblico infantile sia il più difficile interlocutore teatrale, ma forse per il più interessante. Sì, questo è quello il mio credo, diciamo, perché sai, quando tu hai la possibilità, diciamo, come me, che ho, insomma, ora da parecchi anni che faccio teatro, e quindi ho la possibilità di lavorare sia con gli adulti che con i bambini. E quindi gli adulti, bene o male, magari vedono uno spettacolo, se ti devono criticare, sai, sono un pochino sempre più diretti, meno diretti. Ah, meno diretti. Se viene un amico, sì, carino, sì. Il bambino può essere pure tuo figlio. È diretto. Non mi è piaciuto, mi è piaciuto. Non ha mezzi termini. Esatto, e da là capisci veramente come vanno le cose. Poi il fatto della TV, dei computer, questo è vero, perché lavorando con i bambini, specialmente con i laboratori, quindi laboratori che durano, come quello di quest'anno, quasi un anno, conosci a fondo i bambini e ti accorgi che praticamente prevale più la tecnologia che il racconto dal vivo, cioè nel senso che il bambino ormai è coinvolto da tutta questa nuova situazione che può essere il computer, sì, cioè, Nintendo, questi mezzi che diciamo tra virgolette gli fanno trascorrere del tempo, ecco. Del tempo, è che purtroppo, guarda, è utile tutto, il telefono, il computer e tutto, però bisogna, secondo me, dare bisogna saperle usare queste cose. Un bambino, io durante i miei laboratori chiedo al bambino di iniziamo sempre così, di fargli, gli faccio scrivere, inventare una storia, e guarda, con mia grande sorpresa, ogni volta una sorpresa, loro, nel momento in cui tu li metti a proprio agio e li liberi per un istante da tutto questo mondo nuovo, loro non fanno altro che parlare sempre di principesse, di regine, di amore, di delle cose naturali di cui noi abbiamo bisogno e che purtroppo andiamo perdendo. Ho capito. Allora, Ludovico, vogliamo dare un suggerimento ai nostri radioascoltatori? Chi volesse comunque mettersi in contatto con te lo può fare anche tramite il sito www.teatrodellebeffe.it oppure tramite dei numeri telefonici che sono quelli che tu stesso dirai. Sono nel sito, perfetto. Io ti ringrazio innanzitutto di aver accettato il nostro invito. No, rinnovo l'appuntamento in un prossimo futuro anche per scambiare queste opinioni, parlare soprattutto dei bambini, che è sempre molto importante parlare dei bambini. E io sono un sostenitore del fatto che è giusto che ci sia nei computer l'evoluzione tecnologica e così via. Però è importante che ci sia un rapporto umano tra le persone. Esatto. E i bambini debbono essere accompagnati nella loro crescita con un bel rapporto umano. Esatto, sono d'accordissimo con te e aggiungo che il bambino, quando è bambino, deve essere un bambino e rimanere tale, e poi è adolescente. Noi a volte superiamo questi... Come si dice, non mi viene la parola. Sì, noi diciamo pensiamo che già il bambino sia cresciuto. Esattamente. Invece non lo è. Il bambino va, cresce pian pianino col tempo e con l'esperienza, con quello che noi gli diamo come apporto, diciamo, psicologico e culturale. Esatto. Allora, Ludovica, ti ringrazio e ti auguro una buona vita. Grazie pure a voi e in bocca al lupo. Ciao, grazie Ludovica. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Free.

Why do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh God. Oh man, I tell you. Woo, Lord. And I had no cause to doubt you. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear. Are you awesome tonight? La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Ripartiamo con la musica e lo facciamo sempre con la musica di casa nostra. Lei è Emma Marrone, tra passione e lacrime. La stessa stanza caldissima, senti la pioggia che rumore fa, ancora nel mio letto. Tu cosa fai? Così innocentemente, ma innocente non sei. Come me, come tutte le scelte, come tutte le volte. Sogno dolcissimo, da sempre sull'orlo, sempre in bilico. Tu offri parole come fossero fiori, e un vento di scirocco ti trascini fuori. Come fai? Come un ladro di notte apri tutte le porte. Bellissimo,

Cry Shadow, la canzone che abbiamo sentito da Mike Oldfields quest'oggi su CRM Happy Radio, all'interno della trasmissione Slalom, che già siamo arrivati alle 11.30, vi terrà compagnia fino alle ore 13, orario in cui poi daremo il testimone ai successivi conduttori radiofonici. Vi ricordo sempre dell'appartamento di Quattro Vani, 120 metri quadri in pienissimo centro storico a Palermo, zona Quattro Canti, primo piano, lungo balcone sul corso Vittorio Emanuele, in un palazzo d'epoca. È totalmente da ristrutturare, rientrante nei piani di finanziamento regionale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia numero 14 del 1 aprile 2011. Chi fosse interessato può chiamare al 338 21 19 112. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Salutiamo Valeria che ci ha richiesto questa canzone di Giorgia intitolato Il mio giorno migliore. Sempre più bella, Giorgia. Viaggerò fino al mare, passando dal sole, tu mi vedrai, vengo a prenderti. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci, vengo a prenderti. Quanto basta un cuore per dirsi felice di Giorgia con questa bella canzone intitolata Il mio giorno migliore. Continuiamo ancora con la musica italiana, adesso ci spostiamo indietro del tempo e lo facciamo con Jovanotti e questa canzone intitolata Fango. Buon ascolto a tutti da CRN. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, Tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto. Si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli. Ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorare. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto, l'appetito, la sete, l'evoluzione in atto, l'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango. Aver rispolverato questa canzone di Lorenzo Cherubini in Arti Giovanotti è sicuramente stata di buon auspicio questa mattina con questo titolo Fango. Oggi è una discreta giornata, stamattina sembrava veramente bruttina da queste parti, invece ora è uscito il sole, c'è un cielo piuttosto sereno, un bello azzurro tipico di questo periodo. Fra le altre cose, non so se avete potuto ammirare in questi giorni la nostra webcam che è posizionata su nel terrazzo e che vi fa vedere il Golfo di Cefalù. Io ho avuto il piacere di vederlo praticamente venerdì sera ed è una visione veramente paradisiaca. Continuiamo ancora con la musica, sempre italiana. Questa è l'ultima di Tiziano Ferro, La differenza tra me e te. Salutiamo Eleonora che ha richiesto questa canzone al nostro numero telefonico. Vi ricordo www.crmepiradio.it. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te, quasi una negazione, e io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, e te, è così. così chiaro. Sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia un errore. E io ho tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Me e te, elementare. Non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. Spegne i tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. La differenza tra me e te, la canzone che abbiamo sentito questa mattina, è firmata Tiziano Ferro. Come già anticipatovi prima, abbiamo un ospite importantissimo che ci darà la giusta indicazione per quanto riguarda il comportamento che noi adulti dobbiamo tenere verso i nostri figli, soprattutto se parliamo di salute e igiene orale. È con noi in diretta telefonica il dottor Maurizio Palazzolo. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Franco. Non so quanto magari possiamo interessare i nostri ascoltatori sostituendo una bella canzone che è finita poco fa con disquisizioni più o meno interessanti, ma sempre, come dire, scientifiche, che potrebbero non alleviare la stanchezza mattutina come una bella canzone. No, io credo che quando parliamo, come tu giustamente avrai avuto modo di scrivere, quando parliamo dei nostri figli è il bene più prezioso. Quella quindi è la cosa più importante che abbiamo, verso la quale riversiamo appunto tutti i nostri sforzi, che a volte però sono sbagliati. A proposito di prevenzione dentale, a volte quello che concediamo ai nostri figli può essere appunto non corretto e ripercuotersi poi negativamente sulla loro salute. E poi dobbiamo doppiamente combattere per riuscire a recuperare questo. Ma io una domanda volevo farti: l'igiene dentale è essenziale per i bambini fin dalla nascita? È essenziale fin da quando si completa l'eruzione dentale, perché considerato che l'eruzione dentale, parliamo di media, perché poi ogni bambino ha i suoi ritmi, ci possono essere eruzioni ritardate perché anche in famiglia genitori avevano avuto eruzioni ritardate, ma diciamo che la media è quella che riguarda le prime eruzioni attorno ai 6-8 mesi e il completamento di tutte le arcate di denti da latte, chiaramente parliamo, attorno ai 2 anni. È chiaro che nel primo anno stare a pensare di poter pulire 4-6 incisivi a un bambino è estremamente complesso sia per il numero scarso dei denti, certo, che per la collaborazione del bambino. Ma diciamo che quando il bambino è vicino ai 2 anni ha i molaretti da latte, soprattutto che sono quelli masticanti e che dovranno durare fino agli 11 anni circa, è importante che in quelle fasi già si cominci a pulire i denti. Diciamo che un tempo i testi, la scolastica consigliava anche con una semplice garzetta pulire i dentini dei bambini. Oggi esistono spazzolini piccoli adeguati per loro, che anche senza dentifricio, tanto per cominciare pian piano ad abituarli allo spazzolamento, possono essere utili, fonte di gioco, e quindi si può abituare il bambino già dall'anno e mezzo a tenersi questo spazzolino, pulire i denti e noi chiaramente affiancarlo poi per la pulizia migliore per quello che riguarda gli elementi, ripeto, masticanti, i molaretti da latte. Questo, ripeto, per quello che può essere un periodo in cui è utile iniziare a pulire i denti. E come è utile, secondo me, cominciare ad abituare i bambini anche a vedere uno studio dentistico. Molto spesso io consiglio ai pazienti, se chiaramente arrivano con una situazione di serenità in uno studio dentistico, perché una persona che già arriva ansiosa, ha timore, lo trasmette al bambino, ma se un genitore è sereno nell'affrontare una normale seduta odontoiatrica, poi se sono interventi più complessi possono essere indaginosi, la persona può arrivare un po' impensierita, ma in un normale appuntamento per seduta tartaro, per una pulizia di una carietta, avere anche il bambino che può guardare il genitore tranquillo seduto in poltrona, poi si fa stare il bambino sulla poltrona, lo si fa salire e scendere come una giostra senza fargli nulla, lo può abituare a frequentare un ambiente che non vedrà più come l'uomo nero di un tempo. A me è capitato di pazienti che purtroppo ancora oggi al figlio portato in studio perché magari avevano questa necessità e seduto vicino alla sala operativa gli dicevano: mi raccomando, comportati bene perché altrimenti ti faccio fare la puntura dal dentista. Insomma, questa è la cosa più errata, perché già fa pensare al bambino: ma allora questo è un torturatore. Dico, magari molti adulti in questo momento lo penseranno, cioè, ma tu dentista sei un torturatore, ma cerchiamo di fare tutto serenamente sia verso gli adulti e soprattutto verso i bambini. Quindi nel quadro di una educazione alla pulizia, alla prevenzione, è utile anche l'abitudine al vedere la figura del dentista come una persona che può dare il giusto consiglio, l'aiuto e non solo come dire, situazioni più impegnative che a volte proprio disorientano il piccolo paziente. Senti, quindi, volevo chiederti una domanda, scusa se ti interrompo. In questi anni della tua attività tu hai visto comunque crescere gli interessi nella cura e comunque nella pulizia dei denti o no? Sì, questo sicuramente sì, perché da questo punto di vista per una volta diciamo che la pubblicità in questo caso può essere positiva, perché spesso la pubblicità è finalizzata sempre a convincerci che dobbiamo utilizzare determinati prodotti, spendere per certe cose che non sempre sono utili e proficue per noi, ma lo sono sicuramente per le ditte produttrici. Però da questo punto di vista un battage informativo, pubblicitario su quello che è l'igiene dentale, i prodotti per l'igiene dentale, ha sicuramente migliorato una situazione generalizzata, diciamo, quindi abituando le persone all'utilizzo dello spazzolino elettrico, non soltanto la visita di controllo periodico. Ad esempio, faccio un piccolissimo richiamo all'ANDI, che è l'associazione, dico le associazioni grosse odontoiatriche a fini sindacali e culturali che ci rappresentano in Italia, sono soprattutto l'ANDI e l'AIO. Io appartengo all'ANDI come consigliere Palermo, e l'ANDI ormai da moltissimi anni, nel periodo di ottobre, fa sempre il mese della prevenzione dentale, dove noi gratuitamente, Sociandi, con la collaborazione della Mentadent, appunto siamo disponibili alla visita gratuita a chiunque si presenti in studio dietro appuntamento, per verificare lo stato della bocca, delle mucose, dare un quadro di quello che possono essere le necessità di cura del paziente, e informazioni sulla corretta pulizia o altro. Purtroppo devo dire che, nonostante questi sforzi, questi sforzi e questa ripetitività annuale, diciamo il chiarimento che sono tutte visite gratuite, effettivamente quasi nessuno si presenta, pochissimi si presentano, almeno al sud, perché poi l'ANDI ci informa su quello che è il successo dell'iniziativa, e qui da noi insomma combattiamo un po'. Siamo un po' più carenti. Esatto, quindi purtroppo c'è ancora il timore di andare da un professionista, anche solo gratuitamente, per una visita, un controllo, un consiglio, non lo so, come se ci fosse il pensiero, ma magari vado lì e chissà cosa mi convince a fare con spese o altro. Non è così per il mese della prevenzione organizzato dall'ANDI, dico questo un po', potrebbe essere utile saperlo radiofonicamente per gli anni a venire, perché è una opportunità che noi appunto diamo senza essere proprio gratuitamente, perché non abbiamo un corrispettivo dall'ANDI o altro, siamo noi soci disponibili a questa opportunità che diamo a tutti i pazienti, non solo a noi, ma a chiunque voglia un'informazione. Perfetto. Quindi, questo, come dicevi tu, c'è stato un miglioramento nella in quello che potrebbe essere la cura dell'igiene orale. Il problema è che, purtroppo, e qui ci ricolleghiamo ai bambini, è cambiata moltissimo l'alimentazione da 20 anni, da 30 anni, da 30 anni a questa parte, in quella che era l'alimentazione di noi bambini a quella che è l'alimentazione di oggi. Cioè, parlando di me, che sono vicino alla sessantina, e quindi le colazioni mattutine erano un po' diverse, o non c'erano tutte queste merendine, diciamo questi dolci che giravano attorno alla prima colazione. Esatto, che sono sempre importantissima la validità della prima colazione, certo, la merendina mattutina, i pasti. Cos'è un po' modificato? Che il bambino lungo la giornata purtroppo spesso è abituato a mangiucchiare continuamente. Sì, lo vedo anche con i miei figli. Spesso, e questo l'ho anche visto, perché avendo tre figli, dei quali la più piccola ha, se mi sentisse si offenderebbe, 15 anni e mezzo, ma avendo seguito lei e gli altri, tante volte ci riferivano a casa che molti o molte compagne loro arrivavano con la merendina, con cosa? Con il sacchettino di patatine fritte. Con cose non adeguatamente valide da un punto di vista nutrizionale e da un punto di vista come dire di qualità, certo, anche di cario recettività o meno. Un sacchetto delle patatine che dice non hanno zuccheri, ma sono sempre piene di sostanze che si appiccicano sui denti, il bambino poi non lava i denti e quelle sostanze cominciano a far sviluppare acido lattico dai batteri. Fondamentalmente, io dico spesso ai miei pazienti, se il bambino di pomeriggio vuole fare merenda col pane e Nutella, diamogli il pane e Nutella, anche se appiccicoso, anche se zuccherino, però dopo dobbiamo avere, nell'arco di una mezz'ora, l'attenzione di fargli pulire i denti, perché non, diciamo che ci sono alimenti più importanti, la frutta, il latte, lo yogurt, sostanze, i cereali. Che non attaccano particolarmente i denti. Non attaccano particolarmente i denti, hanno componenti di amido, di zucchero scarsamente cariogeni, detergono la superficie dentale, sono utili perché hanno vitamine, minerali importanti per la crescita del bambino. Ma è chiaro che è difficile dire a un bambino fai merenda con una mela anziché con un mottino o con qualcosa. E allora a questo punto l'importante diventa regolarizzare la quantità dei pasti che il bambino fa e non permettere che un bambino stia continuamente a mangiare, esempio finisce di pranzare e alle 3 si riprende un pezzo di cioccolato, alle 5 si prende il sacchetto di patatine, alle 7 si prende un'altra cosa e alle 8 e mezza cena di nuovo, perché avrà sempre i denti continuamente pieni di residui alimentari. E allora con i corretti intervalli e con l'aiuto dei genitori che poi o i nonni lo aiuteranno a pulire la superficie dei denti, e chiaramente si può fare prevenzione, perché è il tempo che intercorre di permanenza di queste sostanze sui denti e non tanto la qualità di ciò che residua, che poi ci darà la carie. Questo si può anche trovare su internet, chiunque può girare e trovarsi delle indicazioni e delle informazioni. Ripeto, fa meno male dello zucchero che dopo mezz'ora viene spazzolato che non qualche altra cosa, delle patatine o altro che sarà ore intere appiccicato sui denti. Paradossalmente sembra strano, ma è così. E attenzione anche alle bibite gassate, perché contengono zuccheri appiccicosi, le cole di tutte le marche, inutile fare una marca o un'altra, sembra che diamo addosso una marca, le cole contengono acido ortofosforico ed è un demineralizzante che rende lo smalto dentale più debole. E allora consiglio generale, se si va a mangiare una pizza e il bambino vuole una cola, facciamogliela bere, ma non stiamo ogni giorno con la bottiglia a casa e continuamente il bambino beve queste sostanze che sono aggressive per sono i denti. Aggressive, come sono potenzialmente aggressive l'aceto, perché contiene l'acido acetico, le spremute di agrumi perché contengono acido citrico. Attenzione, le spremute di agrumi sono importantissime, vitamina C, sostanze rinforzanti, ma siamo lì, se il bambino tutto il giorno beve spermute di arance o spermute e poi non pulisce i denti, siamo... chiaramente l'acido citrico demineralizza. Piccolo aneddoto così anche divertente, comico, insomma, non per il soggetto dell'aneddoto. Io ho un cugino che da quando, un po' più grande di me, da quando era ragazzino amava succhiare mezzo limone tagliato, quindi proprio il succo di limone gli piaceva, lo gustava in questo modo. Esattamente. Qui, sì. Si è distrutto tutti i denti, perché col fatto che per lui questa era un'abitudine giornaliera, l'acido citrico gli ha demineralizzato e mangiato proprio tutti quanti i denti. E già praticamente lui, già all'età di 40 anni, quindi tanto tempo fa, era tutto protesizzato perché l'acido citrico gli aveva distrutto tutto. E allora mangiamo gli agrumi, fanno benissimo, ma mangiamoli nella maniera corretta, detergendo quella superficie, pulendo e altro. Cosa invece si dovrebbe eliminare dall'alimentazione dei bambini perché non servono a niente? Le caramelle, queste sono proprio una cosa che fa danno. Sono proprio negative per i denti. Zuccheri appiccicosi che persistono interamente per tanto tempo lì, e quindi sì che lì i batteri se ne nutrono e producono acido lattico. Anche là. Altro aneddoto di una bambina che ho avuto anni fa con tante carie, difficoltà a lavorarci, ho spiegato tutto al padre che era con la bambina, alla nonna, cercando di fare capire l'importanza dell'alimentazione, e la bambina proprio quasi piangente, perché per lei la seduta odontoiatrica sembrava una cosa terribile. Si finisce il tutto, e la nonna la prende, la abbraccia, per consolarla apre la borsa e le dà una caramella al miele, insomma, quindi e tu dici, ma che sono stato a parlare mezz'ora a vuoto? Allora, no, giustamente, volevo fare due cose, volevo dirti due cose. Innanzitutto, sì, la Regione Sicilia ha approvato un provvedimento per bandire da tutte le scuole le bevande gassate. Mm-hmm. In pratica, nei vari distributori posti all'interno delle scuole siciliane, sì, di ogni ordine e grado, quindi scompariranno. E già stamattina leggevo che c'è stata una risposta da parte delle lobby di queste bevande che contrastava il provvedimento, dicendo che non c'erano basi scientifiche o altro sul danno delle sostanze zuccherino meno. Io avrei tanto da ridire, ritornando, perché diciamo, siamo sempre lì. È chiaro che un succo di arancia nel brick senza gas, con la giusta quantità di zuccheri, forse un po' migliore delle altre sostanze, solo perché ci sarà più vitamina C in quel brick, che certo, non altro. Certo. Poi dico, siamo sempre là, a me non piacciono le imposizioni scese dall'alto, si elimina questo perché fa male e allora siete costretti a usare quello. Diciamo che si dovrebbero dare le corrette informazioni, cercando di convincere le persone. Poi chiaro, se parliamo di una scuola elementare può avere una validità, perché il bambino non ha forse ancora le capacità piene di fare una sua scelta, ma ad esempio in un liceo mettere un bando di questo tipo, non lo so, io sono per la libera scelta delle cose. Potremmo entrare su altri argomenti. Certo, poi diventeremo. Divaghiamo. Ok, senti, poi concludiamo e quindi rimandiamo l'appuntamento, sì, a giorno 28, se non vado errato, intorno a mezzogiorno. Con piacere. Una cosa che volevo dire, scusami, perché poi sfugge il discorso. L'importanza dell'alimentazione, delle visite periodiche, della prevenzione nel bambino, io la vorrei porre all'attenzione dei genitori per due motivi. Un bambino dai 2 anni e mezzo, dai 3 anni, è utile che possa essere poi periodicamente controllato in un suo dentistico, è perché le carie dei denti da latte è importante che vengano curate, se si può, fin dall'inizio, perché il dente da latte ha una funzione non solo estetica, masticatoria, ma serve a mantenere uno spazio, che poi verrà preso dai premolari, diciamo mediamente, non scendiamo troppo nel particolare per non confondere troppo le idee ai teleascoltatori, ai radioascoltatori, ma attorno ai 10-11 anni spuntano i premolari, diciamo genericamente così. Però a 6 anni spuntano i primi molari permanenti. Se i molaretti da latte si cominciano a distruggere dai 7 anni in poi, dai 6 anni, a volte ho visto anche a 5 anni molaretti distrutti, i sesti possono spingere in avanti, spostarsi, rubare spazio ai premolari che dovranno uscire in epoche successive. Okay. E questo potrebbe determinare la necessità di cure ortodontiche per riposizionare i denti e riguadagnare gli spazi quando non ce ne sarebbe stato bisogno, se i denti fossero stati nelle condizioni corrette di forma, di robustezza. Un altro motivo per abituare i bambini a delle visite periodiche fin dalla tenera età, 3 anni, 4 anni, è perché non è solo la situazione dentale che è importante, ma perché si comincia a monitorare lo sviluppo delle arcate dentali. Ci sono situazioni in cui le arcate dentali non crescono correttamente, ad esempio la superiore dovrebbe essere un po' più grande dell'inferiore. certe volte questo non succede, si formano dei cosiddetti cross byte in cui le arcate chiudono incrociate male tra di loro, oppure già si notano sviluppi mandibolari eccessivi per l'età del bambino. Questo tipo di situazioni, quando vengono osservate, devono essere monitorate, perché oggi si possono fare delle cure con apparecchini funzionali che stimolano la crescita ossea o la cercano di frenare, e quindi si può evitare poi di arrivare in situazioni adolescenziali dove diventa difficile la correzione delle crescite ossee, o purtroppo per le terze classi poi la soluzione è solo chirurgica. Quindi fin da piccolini la visita, il controllo, altro può essere importante. Cioè, alla fine noi dentisti vedeteci anche come degli amici, dei collaboratori di famiglia, che possiamo anche essere disposti, tante volte io con tanti miei pazienti dico gratuitamente, si vedono, si controllano, ma non io, dico tanti miei colleghi sono così, entriamo un po' nell'ottica che il dentista può anche essere uno dei medici di famiglia, non soltanto il professionista dove magari determinate cure sono care e basta. Questo genericamente per tutti, insomma, per tutti i pazienti e verso tanti miei amici e colleghi, questo volevo dire, ed è da parte nostra è così. Ho capito. Senti, così chiudiamo, volevo focalizzare su due punti importanti. Sì. Innanzitutto sicuramente la pulizia dei denti. Esatto. E quindi questi intervalli del pranzo, merendina pomeridiana e cena, che non ci siano fondamentalmente stuzzicamenti, ecco, durante questo periodo. Lo spazzolamento dovrebbe essere anche nell'età piccole, dovrebbe essere effettuato la mattina dopo la colazione, certo. Dopo pranzo e dopo cena, quantomeno già cominciare ad abituare i bambini a questo. Troppo spesso sentiamo dire che il bambino già ancora a 6, a 7, 8 anni lava i denti una sola volta al giorno, certo. È troppo poco. Ma a maggior ragione possono diventare anche ulteriori le pulizie dentali se, ripeto, come avevo fatto un esempio prima, il bambino di pomeriggio ha voglia di mangiare pane e Nutella, pane e marmellata, diamolo, ci mancherebbe altro, ma dopo facciamogli lavare i denti e diventa un'ulteriore pulizia, un'ulteriore detersione della superficie dentale. Questo era un punto che mi volevi chiedere. Poi certo. L'altro è abbiamo due tipi di spazzolino, quello manuale e quello elettrico. La differenza è irrisoria? Consiglieresti più lo spazzolino classico manuale o quello elettrico? Sì. E allora, lo spazzolino manuale, diciamo che deve essere usato con una determinata procedura, però qui ci dilunghiamo, potremmo chiacchierarne e discutere meno una seconda volta. Okay, quindi lo spazzolino manuale utilizzato male serve a poco, utilizzato bene è un ottimo presidio di pulizia. Lo spazzolino elettrico è molto utile se viene usato nella maniera e nei tempi giusti, perché altrimenti se viene usato in 30 secondi per pulire tutta la bocca, e allora magari funziona meno di quello manuale. Usato correttamente, dente per dente, e quindi per un paio di minuti, è un ottimo presidio. Dico, possiamo ulteriormente poi discuterne di questo per spiegare un po' meglio modalità di utilizzo e praticità. Perfetto, dell'uno così. Dell'altro, ma effettivamente non si può dire meglio l'uno o meglio l'altro, dipende come lo usiamo e per quanto tempo lo utilizziamo. E quindi ci riserviamo questo argomento per la prossima volta. Con enorme piacere. Ok, dottore Maurizio Palazzoli, io la ringrazio, le auguro un buon proseguo di giornata. Grazie. Altrettanto a voi, grazie per l'opportunità, ma anche proprio che può essere utile a tante persone. Dico, magari abbiamo iniziato con argomenti semplici, si potrebbe poi piano piano cominciare di cose fare più importanti, che tante volte non si conoscono, perché sono più da addetti ai lavori, ma sono a volte cose semplici che possono dare utilità e vantaggi a tutto il mondo dell'utenza odontoiatrica praticamente. Una cosa che poi volevo come nuovamente ribadire, sì, la telefonata è stata fatta con me, abbiamo fatto una chiacchierata noi, ma è importante che tutti si rivolgano con più serenità verso il loro dentista e cerchino di instaurare una collaborazione. Un rapporto, diciamo, che sia un buon rapporto di consulenza e prevenzione. Sì, esatto, infatti. Ok, dottor Maurizio Palazzolo, io la ringrazio, le auguro buon proseguo di giornata e a risentirci. Altrettanto, e una buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano. Ok, grazie. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Virtuale, ogni cosa è a disposizione degli ospiti. Tra queste pagine avrai modo di leggere dei miei lavori, rappresentano parte delle mie emozioni tradotte in parole. Ti offro anche uno spazio dove poter lasciare dei commenti e pubblicare le tue poesie. E questo è quello che scrive il buon Michele Sarica all'interno del suo sito www.michelesarica.it ed è in linea anche per oggi. Ciao Michele. Ciao Francesco, grazie per aver letto, diciamo, quella che è nella mia home page, dai il benvenuto ai miei visitatori. Effettivamente è così, il mio sito è a disposizione di chi lo visita, perché oltre a pubblicare, diciamo, gli eventi dei miei amici, con la pubblicazione dei libri e quindi darne annuncio o mettere addirittura la copertina nel mio sito, nel mio sito si possono anche pubblicare dei lavori, diciamo, dei miei amici, di chiunque, vuole pubblicare le proprie poesie. C'è una pagina detta proprio le vostre poesie. Questo mi fa tanto piacere, perché così è un modo per leggere anche gli altri. Bene. E allora, noi avevi trascorso un buon fine settimana innanzitutto? Sì, il solito buon fine settimana del sabato, che si pensa alla domenica il pranzo con i parenti, sì. Ok, dai, l'importante... Diciamo la vita normale, quella che va a spezzare un po' la routine della settimana. A me non mi spezza niente, perché io da buon pensionato vivo il mio tempo in una certa maniera, però chiaramente si intuisce che per chi lavora ancora ha bisogno di questo spazio di riposo per poter ricaricare le batterie, per come si può dire. Mm-hmm. Okay, io quando lavoravo comunque avevo per il lunedì avevo una certa ritrosia, oggi è lunedì, e mi sento un pochettino ancora i postumi, perché il lunedì è una giornata dove tu che parti da zero a livello di... Sei una macchina, noi siamo delle macchine chiaramente, questa macchina che è stata ferma la domenica, rilassandosi, ascoltando le partite, parlando di cose più o meno frivole e lontane soprattutto dal posto di lavoro, poi tu devi mettere in moto questa macchina, che è un diesel, quindi devi mettere in moto e subito alle 8 deve essere già funzionante e deve raggiungere i suoi 120 km orari. Dal punto di vista lavorativo deve essere presente, e quindi è un po' difficile, e quindi lunedì era sempre una giornata pesante, martedì poi si alleggeriva, mercoledì bellissimo, giovedì la più bella, e così il venerdì. Ho capito. Allora Michele, oggi il tempo dalle tue parti com'è, buono? Guarda, io stamattina, come un po' tutte le giornate, vado sempre al mare, sì, ho fatto la mia classica passeggiatina e non c'è ti nascondo... C'è il cagnolino che ti fai fare questa passeggiatina, mi fai respirare questo iodio. Eh beh certo, abbiamo questa fortuna di avere ancora questa estate di San Martino che si prolunga ancora, non so, farà anche l'estate di San Natalino, quindi approfittiamo, almeno io ne approfitto, visto che abito qua vicino al mare, ho questa fortuna e io amo il mare, quindi per me è una cosa normalissima la mattina fare questi quattro passi, insomma, andare a salutare il mio amico mare, che è di uno splendore incredibile, un'acqua limpidissima, guarda proprio. Alcune volte è più bella di agosto in questo periodo. Io stamattina quando da Palermo mi sono recato qui in radio e così via, vedevo proprio nel golfo di Cefalù proprio un mare limpidissimo e veramente piatto, cioè nemmeno un movimento che poteva dare preoccupazione, dice, mi vado a fare il bagno, dice, ma guarda, sta facendo delle giornate veramente belle, veramente, però. Anche se la mattina e la sera il tasso di umidità scende comunque. Beh, certamente c'è un po' di umidità, si avverte nelle ossa, chiaramente, soprattutto per noi vecchietti, insomma, e quindi si avverte. Parla per te, non parla per gli altri. Io parlo per me, per noi vecchietti, mi ci metto io. Non posso considerarti vecchietto, assolutamente no, sei molto giovane, quindi io sì, per me sì, insomma, si avverte un pochettino, sai, quella famosa, come diciamo nel dialetto, a camola, che incomincia a fare presa nelle ossa, sulle ossa almeno, quindi, ma cerchiamo di tenerla sempre lontano con... soprattutto la voglia di vivere il tempo che ci resta in maniera propositiva, in maniera piacevole, anche facendo queste belle passeggiate, o scrivendo una bella poesia, o pensando alla poesia, o pensando alla vita, all'amore, alle cose positive, diciamo, e alla radio, CRM, certo. Ormai, come ti dicevo l'altra volta, cioè, una volta che mi hai viziato, io vivo anche col pensiero, perché la vita poi in fondo è sempre quella famosa attesa, no? C'è questa famosa attesa di antica memoria, boh, Certo, quindi, certo, è anche un'opportunità per avere un obiettivo costante durante il corso della giornata, non che uno non ne abbia. No, no, però, certo, è positivo. Però è positivo, cioè nel senso che dici, io ho durante il corso della giornata, durante il corso della settimana, quei tre appuntamenti, e quindi sono stimolanti anche per sia la mia grande passione, quella della poesia, ma soprattutto perché mi metto in discussione, cioè mettersi in discussione sicuramente di buon auspicio per chi ha necessità costantemente di avere dei nuovi stimoli. Ma io penso che questo fatto sia un fatto proprio vitale. Nel momento in cui tu, come il famoso Godot, appunto aspettando Godot, non aspetti Godot. Niente, non ti aspetti più niente durante la giornata della vita, perché non so, perché hai chiuso un po' tutti i ponti, hai abbattuto tutti i ponti sulle tue spalle, o hai chiuso tutte le porte delle possibilità, o credi che la tua età non abbia quei valori che tu credevi che la vita ha di per sé, perché ogni età, io mi rendo conto adesso che ho la mia età, ho 65 anni e lo dico con piacere, io mi rendo conto che una volta, quando pensavo, vedevo mio nonno a 60 anni, 65 anni, allora i vecchi si diventavano molto prima vecchi, io vedevo mio nonno che a 60 anni mi sembrava Madusalemme, per dire. Adesso io ho 65 anni, francamente non mi sento come mio nonno o come vedevo mio nonno. Adesso mi rendo conto che, a parte che l'età, chiaramente la nostra vita si è allungata di parecchio e in maniera a volte positiva, per carità, fatica e acciacchi, però dico, ogni età poi si scopre che ha una sua bellezza. Anche quando tu hai un po' qualche senso, diciamo, sia un po' un po' assopito, ecco, sì, per intenderci, ma guarda, ci sono gli altri che si risvegliano, cioè si acquisisce un po' più la sensibilità su altre cose, quindi si amano di più certi aspetti magari che prima tu non ti accorgevi, ecco, come il fatto della passeggiatina, che prima magari per te era una cosa, una perdita di tempo, lo facevi soltanto con le ragazze o con i tuoi amici, mentre invece adesso anche da solo, anche in compagnia del cane, anche salutare, è la cosa, ecco, scopri dei valori che prima non ti rendevi conto. Okay, perché prima c'è una, ecco, questo succedeva prima una cosa soltanto, che a me capitava sempre, da giovanetto, cosa si diceva? Quello che ci dice un certo Spencer, nelle sue definizioni ci dice il tempo, che cos'è il tempo? È ciò che l'uomo è sempre intento a cercare di ammazzare, ma è che alla fine ammazza lui. Ecco, quindi se noi cerchiamo il tempo, cerchiamo di passare il tempo, è una brutta cosa. Noi dobbiamo vivere il tempo, ce lo dobbiamo godere, anche nelle minime cose, nelle piccole, diciamo, cose. Sì, sì, sì, nella prima si parlava proprio di questo, cioè noi dobbiamo cercare di approfittare di questa vita, cioè cercare di viverla intensamente, ma guarda, anche proprio non, nelle piccole sfumature. Ma difatti la vita non è il fatto della sua lunghezza, quanto si protrae, 100 anni, 150, non è questo. La vita è come se la si vive, il tempo è come lo si vive, come lo si adopera, quindi l'intensità con cui tu vivi, ma che intensità non significa che noi per intensità non intendo qualcosa di particolare, cioè io devo andare a correre alle mani, che so, a Monza per dire, oh, che intensità di vita, no, o devo andare per forza nei campi a sciare o a fare chissà che cosa, no, ma anche nelle piccole cose, perché il tempo dobbiamo sapere che è un artista, l'artista, guarda, il tempo, facci caso, l'artista, il tempo è un artista, che cos'è? Uno scultore, e cosa fa sto scultore, sto tempo? Ci modella. Ecco cosa fa, ci modella fisicamente e anche psicologicamente, volere o volare, e questa è la situazione. E quindi se il tempo corrode anche il ferro e sbriciola le pietre, il tempo però c'è un'altra cosa importante, che guarisce le nostre piaghe, le nostre pene. Fortunatamente ci porta a galla soltanto quei ricordi meno amari, o quantomeno ci riaddolcisce. Quindi il tempo in definitiva che cos'è? Vita. Questa vita che va modellandosi giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. Io non sono più quello di ieri. quello che tu mi hai conosciuto 30 anni fa, le mie molecole sono, le mie cellule sono cambiate. Giorno dopo giorno cambiamo, ecco qui la mentalità. Quando a volte si dice ma tu non sei più quello di ieri, ma certo. Ci mancherebbe altro, meno male, dobbiamo dire, non sono più quello di ieri. Si vede che il tempo ha agito su di me, cioè non è passato inutilmente. Bene, Michele. E a proposito di tempo, io ti... una bella poesia, dai. Ti voglio ricordare che in questo momento proprio, che io ho una madre che ha 93 anni. Complimenti comunque. Siccome abbiamo parlato di giovani, di vecchi, di amori, oggi volevo chiudere col ricordare mia madre che ancora vive. Fortunatamente ancora vive in buona salute, certo qualche colpettino lo va perdendo, diciamoci la verità, ma è ancora in vita e questa volta voglio decidere così chiudere questo piacevole incontro con gli ascoltatori di per radio e con te Francesco in questa maniera, dedicandole questa poesia e a tutte le madri che e a tutte le mamme che sono in ascolto, soprattutto quelle di una certa età, perché si nota il peso della mamma quando purtroppo non c'è più. La mancanza, certo. Io purtroppo vivo lontano di mia madre perché lei vive in America e quindi sono tanti anni che non ci vediamo, ci sentiamo, certo, però è certamente la mancanza, l'avverto, come l'avverte lei, poverina, di questo figlio lontano, e certamente, e ogni tanto quando le spedisco qualche poesia, lei è molto contenta e felice, come questa che le ho dedicato a lei. Le ho dedicato appunto tempo fa in occasione di un suo compleanno, insomma, non ricordo adesso quale, ma è stata una piacevole coincidenza. Mi senti? Sì, sì, ti sento e poi ci salutiamo già da adesso. Allora, ti abbraccio, grazie anche per la bella chiacchierata e dedico questa poesia a mia madre, dove dico così, Francesco. Va bene, il nostro appuntamento è poi rinnovato a mercoledì. A mercoledì, addio piacendo, grazie. Ok, certo. Mia madre è una roccia. Mia madre è una roccia che si affaccia dal cuore e io sono il suo sole nel suo mare d'angoscia. Lei vorrebbe tenermi sempre dentro i suoi occhi per salvarmi dal mondo, dal dolore dei vinti, dal delirio dei forti, dalla vita che scorre, e mi offre parole sussurrate dal credo come onda che sbatte sulla costa del cuore. Mia madre è una roccia e io sono il suo mare. Grazie a tutti, buona giornata. Un abbraccio, Francesco. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Lili, tui, mantu me ho.

il piccolo Thomas non ha preso soltanto la passione per l'innovazione tecnologica e per i computers, ma ha colto anche su Steve Jobs gli atteggiamenti e forse perfino qualcosa nel tono della voce. Guardate, il vocabolario francese ci indica che è un capo o un comandante e chi professionalmente guida la ristorazione, la cucina. È così, Alessandro? Certamente. Allora, buongiorno, capo cuoco, buongiorno a voi. Allora, il nostro appuntamento è importante perché oramai lo sai che i radioascoltatori aspettano questo momento per cominciare a scrivere questa ricetta e fare un pranzo delizioso, che magari non lo faranno oggi, magari lo conserveranno per domenico o per un giorno importante. Ma oggi cosa ci hai preparato? E allora, oggi abbiamo preparato un sacco di cose interessanti, ma volevo riscontrare il piacere di presentare una delle nostre invenzioni che comunque proponiamo qui alla nostra clientela e che comunque è un piatto che si prepara da anni nelle nostre tavole, ma qui è stato un momentino rivisitato, modificato ed è diventato praticamente uno dei nostri pezzi forti. Stiamo parlando dei classicissimi spaghetti al nero di secchia, che comunque li abbiamo un momentino modificati e trasformati introducendo qualche fiocco di ricotta ovina. Qualcuno si impressionerà, dirà ma come mai si riesce a mettere un prodotto che comunque rappresenta uno dei formaggi più tradizionali. Ebbene, è così, è un piatto che comunque va a raggiungere un momentino di delicatezza maggiore rispetto al gusto forte che il nero di seppia potrebbe avere. Facilissima l'esecuzione: andremo a mettere in una pentola un fondo di cipolla, un paio di spicchi d'aglio leggermente schiacciati che poi andremo a togliere una volta imbianditi, e metteremo la nostra seppia tagliata a quadrucci. La faremo rosolare, andremo a mettere già da subito un po' di prezzemolo per cercare di spingere un po' di aroma e una presa di peperoncino. Una volta ben rosolata la bagneremo con un bicchiere di vino bianco, la faremo sfumare e praticamente aggiungeremo un paio di cucchiai di concentrato di pomodoro. Allungheremo con acqua all'incirca il doppio della quantità del concentrato di pomodoro che andremo a mettere e a parte se abbiamo conservato le sacchette della seppia, che chiaramente contengono il nero, quello che andrà a dare il colore alla salsa, bene. Diversamente potremo anche utilizzare delle seppie surgelate e prendere il barattolo che praticamente troviamo ormai in commercio con il nero di seppia. Ne prenderemo appena un cucchiaio, lo metteremo all'interno della salsa e nello stesso medesimo momento la lasceremo cucinare per una quindicina di minuti. Ho capito. A parte, praticamente andremo a cucinare la pasta e solamente al momento che l'andremo a spadellare andremo ad aggiungere qualche fiocco di ricotta ovina. Chiaramente cospargeremo di prezzemolo e serviremo su un piatto ben caldo. La guarnizione chiaramente sarà sempre qualche fiocchetto di ricotta ovina sopra, che andrà praticamente a spezzare molto bene, in quanto gli spaghetti risulteranno essere neri, il fiocco di ricotta esalterà il colore del piatto. Tutto qua. È un piatto molto molto molto facile, però immagino, chiaramente stuzzicherà i vostri palati. Speriamo bene di riuscirci a farlo. Io ti ringrazio, Alessandro. Il nostro appuntamento quindi è rinnovato ad mercoledì, sempre più o meno a questo orario. Va benissimo. Ti ringrazio della collaborazione. Vi auguro una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori. Consiglio sempre ai radioascoltatori di segnare e appuntare comunque le ricette. Anche perché comunque in un momento di festività, che adesso comunque ci stiamo avvicinando, andare a preparare dei piatti che vanno un po' fuori dal normale è sempre qualcosa di piacevole. Bene così. Va Alessandro, bene? Buona vita. Grazie e una buona giornata a tutti. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. We'll be right back.

Santa Smeralda con questo pezzo che si intitola Don't Let Me Be Misunderstood. È la canzone che ha chiuso quest'oggi il nostro appuntamento con la musica targata Slalom. Da Francesco Puglisi è tutto. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a mercoledì, se il buon Dio lo vorrà. Buon proseguo dei programmi di CNN.